falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Parliamo ancora una volta di calcio, però non raccontiamo la vita di un grandissimo campione, di quelli di oggi che guadagnano milioni di euro, che firmano autografi e cose di questo genere. Parliamo di un grandissimo talento che ha mollato tutto e ha buttato al vento forse una carriera per seguire il suo istinto. Un calciatore che è diventato scrittore, un poeta, un uomo sempre controcorrente. Lo era quando giocava a calcio, lo è stato anche e soprattutto dopo. Lui si chiama Ezio Vendrame, ma voglio ringraziare soprattutto Ennio, che ci chiama da Vicenza, guarda caso, perché è grazie a lui, alla sua segnalazione, che ha dato il via ad altre segnalazioni, ma grazie a lui possiamo fare conoscere anche a voi la vita straordinaria di questo calciatore friulano. Buongiorno Ennio. Buongiorno. Perché hai scelto Ezio Vendrame? Perché un giorno mi ritrovai con un mio amico Salvo in un bar di Vicenza a parlare di calcio, e lì sentii nominare per la prima volta il suo nome dal gestore, che ne raccontava gli aneddoti con gli occhi proprio lucidi. Quindi sorse in me una sorta di curiosità e andai a vedere. Sì. Nonostante sia un giocatore veramente straordinario, e di lui di fatto non ci sono filmati reperibili. E quindi praticamente l'unica cosa che si può venire a sapere è proprio tramite i racconti, passaparola delle persone che l'hanno visto giocare realmente allo stadio. Sì, è vero, questo te lo confermo anch'io. Le volte che sono stato a Vicenza, se parli di Vendrame da qualsiasi parte si illuminano. È veramente uno che ha lasciato un ricordo indelebile in quella città. Assolutamente sì. Il personaggio poi è, secondo me è incredibile. Molto facilmente credo che qualcuno potrebbe semplicisticamente definirlo uno che ha sprecato il suo talento, però per come la vedo io è uno dei pochi che ha vissuto veramente il gioco del calcio per quello che è, cioè fondamentalmente un gioco. Sono perfettamente d'accordo con te, e allora adesso ti facciamo sentire la storia di Ezio Vendrame, la facciamo sentire a tutti voi. Grazie Ennio. Grazie infinite. Mi chiamo Ezio Vendrame. Sono nato il 21 novembre 1947 a Casarsa della Delizia, in provincia allora di Udine, oggi di Pordenone, in una casa non mia vicino ai binari morti di una ferrovia. Ne ho passate tante e vissute di più, ma nulla cambierei della mia vita, nemmeno l'ombra di una virgola. È bello, inizia così il libro Se mi mandi in tribuna godo, un titolo provocatorio come provocatoria è stata tutta la vita di Ezio Vendrame, friulano nato in una famiglia povera negli anni successivi alla fine della guerra, quando in giro non c'è molto da mangiare neanche per sfamare i propri figli. La famiglia di Ezio non ce la fa a mantenerlo e così lo affida alle suore. In collegio, come lo chiamano gli altri, ma in realtà è un orfanotrofio. Vendrame, come racconta nei suoi libri, si ritrova a essere orfano con i genitori ancora vivi. Quel luogo lui lo chiama inferno. L'unico ricordo positivo è il fatto che il gioco preferito da tutti i bambini è il calcio. Così per Ezio nasce il grande amore per questo gioco. Alla fine del terzo anno mi dovetti sorbire la colonia estiva del collegio in un paesino di montagna. Ormai avevo raggiunto il limite della sopportazione. Mi sentivo prigioniero, proprio io che ero predestinato a volare. Non so se per compensazione o per fatalità, proprio fra quelle montagne trascorreva le vacanze il medico della squadra di calcio udinese, che, vedendomi giocare una partitella tra ragazzi, mi segnalò ai dirigenti della società. Così a soli 15 anni Ezio Vendrame entra a far parte della squadra giovanile dell'Udinese e si trova a condividere lo stesso ambiente dove sta esordendo il 18enne Dino Zoff, uno con un altro carattere, direi, no? Nel campionato 67-68 viene trasferito a Ferrara, alla SPAL, ed esordisce in Serie A. È un modo di dire, esordisce, perché in quel campionato lui non scenderà mai in campo e la colpa, naturalmente, è di una donna. Ero venuto a conoscenza che in città c'era un albergo dove ogni settimana arrivavano una decina di ragazze che venivano offerte a pagamento ai clienti dell'albergo stesso. Il gestore era un grande sostenitore della SPAL. Gli chiesi dove erano le ragazze e lui si scusò dicendo che erano tutte occupate, eccetto una, secondo lui la più carina, che però era uscita a prendere un toast. Dovevo avere pazienza, soggiunse, ne sarebbe valsa la pena. La ragazza era di Genova, aveva la mia stessa età e si chiamava Roberta. E così in questo albergo del piacere Ezio e Roberta vivono una storia d'amore molto intensa che dura per quasi tutto l'anno. Insomma, storia d'amore, storia. Vendrame è un rubacuori, la ragazza si innamora di lui sin dal loro primo incontro quando rifiuta di farsi pagare. Così inizia un gioco di finti infortuni, dolori intestinali, stiramenti e regolarmente lui riesce a saltare la partita. La domenica la trascorre in albergo sotto le lenzuola. Finché un giorno il magnaccia della ragazza, stanco dei mancati introiti, la fa sparire, nel senso la manda da un'altra parte, e il presidente della società, venuto a sapere dell'inganno, manda anche Vendrame da un'altra parte, in prestito a Sassari, alla Torres. Perezio è il primo di una serie di trasferimenti dovuti alla sua indisciplina. Un anno alla Torre, su un altro al Siena, poi Rovereto e infine all'Ane Rossi Vicenza, dove Vendrame si ferma 3 anni. A Vicenza Vendrame, l'abbiamo detto all'inizio, trova un ambiente che gli piace, soprattutto per quello che ruota attorno al calcio. Intanto c'è la trattoria di Luigino De Gobbi, dove trascorre le sue serate tra scherzi, serenati, grandi mangiate e qualche sguardo di troppo sulle altre clienti. Lui è fatto così. Più volte nella sua vita si dichiara malato d'amore, è attratto dalle donne in modo morboso, quindi è sempre alla ricerca di un'avventura, di complicità. Inoltre dice sempre quello che pensa e questa sua sincerità gli causa talvolta qualche problema di troppo. E una volta, invitato con il presidente Farina a una cena in un club di tifosi biancorossi, per esempio, tiene questo discorso. Innanzitutto vi ringrazio per tutto l'affetto che mi dimostrate, ma mi sembrate un po' fuori di testa. Io so soltanto tirare calci ad un pallone. Chissà quante cose voi sapete fare meglio di me. Non sono un chirurgo che salva vite umane e nemmeno un operaio che per arrivare alla fine del mese si deve fare un culo grande così. Io sono un fortunato ed è per questo che non vi capisco. Che cosa saranno mai queste partite di calcio? Inventatevi delle alternative domenicali. Andate a vedervi un bel film, leggete un libro. Oppure restate a casa e fatevi una bella scopata. Cazzo, non possiamo vivere di solo calcio. Beh, insomma, è un discorso piuttosto strano se fatto da un calciatore a una cena di tifosi. E così Giussi Farina, presidente del Vicenza, non lo porterà più a cene come questa, perché lui è imprevedibile, però a Vicenza comincia a fare vedere delle grandi giocate. Gioca per esempio una partita incredibile contro l'Inter, facendo 2 assist e mandando in gol 2 volte i suoi compagni. È l'Inter di Facchetti, Burnic, Corso, Bellugi, Mazzola. Sono gli anni in cui lui ha anche i primi contatti con certe brutte abitudini di certi medici. Ne abbiamo già parlato nella puntata che abbiamo dedicato a Carlo Petrini. E quindi arrivano sostanze che hanno effetti devastanti sul fisico. Non so cosa fosse quella specie di particola che il medico, d'accordo con l'allenatore, ci fece assumere come fosse un sacramento 3 ore prima della gara contro la Roma. Forse doveva darci una spinta, ma durante l'incontro si rivelò un calmante, quasi un sonnifero. Solo che durante tutta la notte in albergo girammo eccitati con la bava alla bocca per smaltire quella maledetta particola. Shock, shock, ancora sotto shock. Shock, shock, ancora sotto shock, per quello che ha creato. Betty. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Ezio Vendrame sui campi di Vicenza, dove il ricordo resterà indelebile, come ci ha confermato Ennio all'inizio della trasmissione. Intanto la sua classe diventa sempre più cristallina, ma lui si fa notare molto di più per quello che combina fuori dal campo. Così nel 74 viene ceduto al Napoli. Lui ha chiesto e ottenuto 20 milioni di lire all'anno, che era il doppio di quello che prendeva a Vicenza. Pensa di aver fatto un colpaccio, ma non siamo ancora negli anni dei procuratori scaltri che sanno prendere il meglio dai loro giocatori, perché in realtà Vendrame si accorge dopo di essere uno dei calciatori che guadagna meno a Napoli. Allora lui compensa questo smacco facendo la cosa che gli riesce meglio: litigare con l'allenatore, che è Vinicio, e si fa mandare in tribuna. Cagliari-Napoli, 1976. Vinicio non mi mette neanche in panchina e io mi ritrovo in tribuna. Allora decisi di giocare la mia partita. In tribuna avevo visto una modella che avevo incontrato in albergo. Andai da lei e la agganciai con qualche sorriso. Dopo un po' di riscaldamento, mentre i miei compagni giocavano in campo, me la portai nei cessi del Sant'Elia e feci quel che dovevo fare. Chapeau! Il sesso è sempre il protagonista principale dei racconti di Ezio Vendrame. Spesso i suoi ricordi sono anche molto più coloriti e dettagliati di come ve li presentiamo oggi. Però Ezio è così, è uno sanguigno e genuino fino in fondo. Dopo un anno a Napoli e tre sole partite giocate, arriva a Padova, Serie C. La Serie C di allora è marcia fino al midollo, sperando che non lo sia anche oggi. Gli accordi tra la dirigenza delle varie squadre sono all'ordine del giorno. Offrire dei soldi a un giocatore è una cosa considerata quasi prassi normale, e lui affronta questo ambiente corrotto con il suo spirito anarchico di quello che comunque, qualsiasi cosa accada, alla fine fa sempre di testa sua. Era la penultima partita del campionato. L'Udinese manda un emissario da Udine, praticamente mi dice che se la domenica con l'Udinese, la domenica successiva della partita, avrei giocato male, mi bastava solo che io giocassi male, mi davano subito 7 milioni. Cazzo, 7 milioni. Noi quell'anno lì, di premi partita, ci davano i premi federali, che erano di 22.000 lire al punto. Quindi noi avessimo battuto l'Udinese, avremmo preso 44.000 lire, e questo qua me ne dava 7 milioni solo se io giocavo male. Ho detto, cazzo, ho giocato tante volte male, perché io sempre facendo un cazzo di forma generale, se non posso giocare una volta in più. L'ho detto subito, dissi. Lui dice di sì, però la domenica allo stadio Appiani di Padova ci sono almeno 15.000 tifosi friulani che lo insultano, lo chiamano traditore. Vendrame non ci sta, e qui parte il genio, reagisce a modo suo. 7 milioni, ma vaffanculo, vi faccio vedere. Gli ho fatto 2 gol, hanno perso la partita, sono rimasti una evviva le 44.000 lire. Ma aspetti, ho fatto un gol per i calciofili, unico in Italia e al mondo, perché gol di calcio d'angolo sono diversi che li fanno, io ne facevo qualcuno, però l'ho fatto da calcio d'angolo. Prima di batterlo mi sono rivolto allo stadio, ai friulani, e adesso vi faccio gol da qua. E gliel'ho fatto, sì. Ezio Matteo Vendrama è fatto così, lui vive distinto, non gli piace essere omologato, non gli piace che gli altri gli dicano quello che deve fare. C'è un altro aneddoto che ricordano in molti a Padova. Padova Cremonese, ultima di campionato, c'è aria di combin per un pareggio. Dopo 20 minuti di noia mortale, il pubblico capisce, comincia a fischiare la squadra di casa e allora lui si inventa qualcosa per movimentare la giornata. Allora mi sono fatto dare palla a metà campo, ho saltato tutti i miei compagni tornando indietro, ho fatto finta calciare al portiere che si è buttato, sono andato con la palla fin sulla linea del porta, lo stadio ha mutolito e dopo sono tornato indietro, l'ho sentito proprio il, sai, sta il respiro dello stadio, perché hanno detto sto qua, era una giornata. E mi sono accorto che in tribuna c'era uno strano movimento. Sì, perché un uomo sofferente di cuore per l'emozione muore di infarto. Il giorno dopo Vendrama è dispiaciuto, ma in uno dei suoi libri commenterà l'accaduto con una delle sue frasi lapidarie: se sei venuto a veder giocare me e sapevi di essere malato di cuore, allora ti volevi suicidare. La vita di Ezio Vendrame, la vita da calciatore anomalo, è una serie interminabile di aneddoti. Quella volta che fece un tunnel a Gianni Rivera, al suo idolo, e poi gli chiese scusa a fine partito, quando batte i corner di Rabona o quando palla al piede si ferma improvvisamente e sale con tutti e due i piedi sul pallone e gli serve, dice, per vedere meglio dall'alto. Immediatamente dopo magari fa un lancio da 40 metri pescando il compagno di squadra in area. Boniperti lo ha definito il Mario Kempes italiano, altri lo paragonano a George Best, che è il campione nordirlandese che spesso ritorna nei nostri racconti. Forse assomiglia un po' di più a Robin Friday, quel Robin Friday di cui abbiamo già parlato mesi fa. Era un altro cavallo di razza che correva a briglia sciolta. Ma la vita da calciatore è solo una parte della vita di Ezio Vendrame, che comunque assomiglia soprattutto a se stesso, perché certa gente è nata per fare cose superiori. Rimanete con noi, vi racconteremo il resto di questa storia. Cominciò così a fare il vagabondo, girando paesi e città. Cercò la fortuna nei quartieri del mondo, dimenticando la sua povertà. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia che Ennio, un nostro ascoltatore, ci ha segnalato. Sto per dirvi una storia di calcio, però in realtà è solo una storia legata al mondo del calcio, perché un uomo di eccezionale genialità, un anarchico unico, è passato anche dal calcio e ha fatto divertire qualcuno. Però Ezio Vendrame viene considerato anche uno scrittore, oggi è uno scrittore, un poeta, e non è un ex calciatore, è un'altra cosa. È un personaggio che durante la sua carriera calcistica ha dimostrato di avere dei piedi molto buoni, però di essere anche un ingestibile, sempre a caccia di donne, un anarchico, un menefreghista, contrario a ogni imposizione di disciplina. È un uomo che divide la scena del calcio veneto degli anni 70 con un altro genio di cui prima o poi ci ritroveremo a parlare, Gianfranco Zigoni. Con Ezio Vendrame non serve frequentarsi, perché era tanti anni che non lo vedevo, però ti rimane nel cuore una cosa di pelle. E poi io odio le persone banali, lui non è mai banale, troppo grande. Ma non sono solo io che la pensa così, ci sono amici a Oderzi, i suoi libri, hanno registrato le sue interviste in televisione, vanno pazzi per lui. Io la prima volta che l'ho visto, l'ho guardato negli occhi, ci siamo innamorati, senza essere gay. Un giorno gli ho detto: peccato Ezio che tu non fossi una donna. Secondo Vendrame, in tutta la storia del calcio sono solo tre i giocatori che hanno cambiato il mondo: Maradona, Zigoni e Meroni. In questo rigoroso ordine non alfabetico, tutto il resto è noia. Se io ne aggiungo 5 o 6, Best, Cantona, Robin Friday, Beccalossi, insomma non tanti altri che hanno saputo interpretare il calcio in questo modo. Lui ha lasciato il calcio nell'81 dopo aver lasciato il Padova, dove aveva giocato per 57 volte nel 77. Gli ultimi campionati li gioca ancora perché si diverte, gioca in squadre minori, l'Audace di Verona, il Pordenone, lo Junior Casarsa. Tanto lui non gli importa niente del calcio maggiore, il suo interesse è scrivere poesie. Quest'amore è nato in lui dopo un incontro con una persona di cui abbiamo già parlato, un altro genio sfortunato e che ha vissuto la sua vita ai margini, Piero Ciampi. Piero Ciampi viene a vedermi giocare, lui non aveva niente, non aveva orologi, non aveva una lira, non aveva niente, però era l'uomo più ricco che abbia incontrato nella mia vita. Inizia la partita e io ancora non lo vedo, mi aveva promesso che sarebbe venuto da Roma a Padova, appena l'ho visto salire in tribuna, ho bloccato tutto lo stadio, mi sono preso il pallone sotto mano, sono andato in tribuna, perché di fronte a un poeta così il calcio diventa una cosa volgarissima. E qui stiamo parlando di due geni che si incontrano, l'arbitro lo ammonisce, ma tutto lo stadio di Padova applaude questo strano gesto di amicizia che nessuno aveva mai visto e nessuno vedrà mai più. Questo incontro con il cantante, col poeta livornese, contribuisce all'operazione di autoannientamento del vendrame calciatore, perché lui decide di rinunciare al suo talento per coltivare la sua anima. E mentre, come dire, il calciatore vendrame scende dei gradini, il poeta e lo scrittore vendrame ne sale altri, inizia a pubblicare i suoi versi, torna a casa sua, a Casarsa della Delizia, prende una casa in affitto perché a lui della proprietà privata non gliene frega niente, inizia la sua vita nel completo isolamento. Una regina come te in questa casa, ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono? Le 11. Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze, te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso, ma che? Ma fammi capire, tu sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Questo completo staccarsi dal mondo per Ezio Vendrame è una liberazione, è una redenzione che lo porta a vivere secondo le regole del suo istinto, perché le sue poesie sono il frutto di esperienze maturate in una vita piena di eccessi, ma anche dalla precisa volontà di andare controcorrente, rifiutando gli stereotipi del vivere comune. Sono sopravvissuto ad oltre 50 Natali ed ho inculato altrettanti Capodanni coricandomi un'ora prima, ma per nulla al mondo potrei resistere al richiamo di una virgola. Una virgola che rappresenta la volontà di Ezio di staccare, separare le varie fasi della sua vita, quella del calciatore e quella dello scrittore e poeta. Un dramma interiore che lentamente consuma quest'uomo, che ha un aspetto trasandato fuori dagli schemi, ma che parla con quella spontaneità che gli viene dalla testa e dal cuore. Le cose della vita sono soprattutto le cose che non sento più, perché il dolore che mi fa più male è quello che non sento più, hai capito? Non sento più dolore, perché non è che è il cassetto dei sogni vuoto, è che i sogni mi hanno fregato anche il cassetto. Il desiderio di isolarsi dal mondo e di vivere in completa solitudine nasce da un sentimento di inquietudine che Vendrame si porta dietro fin da bambino, quando la non presenza dei genitori segna il carattere di un bambino bisognoso d'affetto e di conferme da parte di chi gli sta vicino. Scrivo per non ammazzarmi, così Ezio Vendrame ha dichiarato in più di un'occasione, e nello scrivere ci mette tutta la passione possibile contro il conformismo della gente. Questa canzone, per esempio, ha il testo proprio scritto da Ezio Vendrame. Qua è un mondo dell'apparire, mi capisci? La stragrande maggioranza delle persone sono tutte uguali, non sai mai chi hai di fronte perché sono tutte delle maschere. A me ne sono andato fuori dei coglioni e cerco di non perdere niente del mio mondo, e se faccio qualche marchetta sono io che decido di farlo. Ho murato la finestra destra, così ora, anche nello spreco dei miei giorni, nessun'alba mi potrà distrarre. Non so più nulla di lei, e pensare che una volta era tutto per me, ma una volta era tanto tempo fa, e anche tutto col tempo passa. Poi qualche marchetta capita anche, Ezio sceglie a quali condizioni farla, pubblica libri, ogni tanto c'è qualche presentazione da fare, ultimamente ha partecipato a una serata elettorale del candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle di Treviso, e per il resto, se pensate che sia sufficiente avere il suo numero di cellulare per contattarlo, vi sbagliate, perché lui al telefono non risponde mai, lui la gente non la sopporta. Neanche i suoi concittadini di Casarsa della Delizia, forse la cosa è reciproca, tant'è che quando ha invitato il giornalista Gianni Mura per una collaborazione su uno dei suoi libri, gli ha dato appuntamento al cimitero di Casarsa, precisamente sulla tomba di Pasolini, perché a suo dire lui è la persona più viva di quel paese. Quando vuole fare una passeggiata esce alle 5 del mattino ed è lui stesso a spiegarci il perché. Ma sono i momenti più belli, perché non sento la puzza degli altri, hai capito? La gente dorme, il mondo è mio, è l'unico momento che mi appartiene. Dopo, quando si alza, è tutta l'ipocrisia. Io mi nascondo, perché non c'entro niente. Eh sì, non c'entra niente Vendrame, per questo ha tagliato i ponti con tutti. Non c'entrava neanche in quel festival di Sanremo del 2005 quando polemizza con Bonolis per un dialogo amichevole avvenuto con Gigi D'Alessio al termine della sua esibizione. Ovviamente da allora non è mai stato più invitato a nessuna trasmissione, ma siamo sicuri che a lui non gliene importi un bel niente. Mentre la cosa che mi ha fatto vomitare non si può, non può. E poi non me ne frega niente, non può scandalizzare l'amore. Io ho parlato d'amore quando Renger scende dalle scale. Devono scandalizzare della gente che si permette, per accattivarsi le simpatie del pubblico, leccarti il fondo schiena a te. Lo può fare in privato. Hai capito? Sto parlando, sai già di chi sto parlando. Aiutami, come si chiama, perché ho già dimenticato, non voglio neanche più ricordare. Sono sicura che volete aiutare, eh? Non no. So come come si chiama il cantante napoletano, perché tanto sai che i miei cantanti preferiti scalano la classifica del mio cuore. Sì, è stata una cosa indegna, questo è stato farti qua pubblicamente, lo poteva fare in privato, non si fanno queste sono cose vergognose. Abbiamo provato anche noi a chiamare Ezio Vendrame, però non ci ha risposto. Alcuni dei suoi amici o collaboratori ci hanno detto che non lo sentono da anni. A noi piace ascoltare il suo pensiero un po' sboccato e irriverente, quello di un genio del calcio che ha buttato nel cesso la sua carriera per vivere qualcosa di superiore, l'amore con la A maiuscola, sotto il segno della poesia. Salvarsi significa avere il telecomando della propria vita in mano. Dobbiamo noi scegliere le cose, non farsi scegliere. Dobbiamo essere i protagonisti della nostra vita, senza nessuna paura di sbagliare. Sbagliamo, che gli sbagli sono le cose più belle della vita, ma sbagliamo decidendo noi i nostri sbagli. E scopate tantissimo. D'accordo Ezio, e noi ti prenderemo alla lettera. Questo è veramente un grande, perché non si è mai piegato, giocava a pallone come pochi sapevano fare, eppure aveva altre ambizioni e altri progetti per il telecomando della sua vita. Veramente tanto di cappello a chi sa rinunciare a qualcosa per andarsi a prendere qualcosa per se stesso. Ezio Vendrame, una vita straordinaria. Noi ringraziamo Ennio e tutti quelli che ci hanno chiesto di Ezio Vendrame e andiamo sotto la regia di Luigi Speciale a chiudere questa puntata chiedendovi di iscriverci al Falco e il Gabbiano @radio24.it come già state facendo in tantissimi, oppure di venirmi a cercare sui vari social, insomma se volete mi trovate. Un saluto, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.